Buonasera. Allora, buonasera a tutte e tutti, ammazza, c'è un po' di gente. Buonasera a questa iniziativa, per chi non sapesse chi è Radio Onda Rossa, mi sembra molto difficile che qualcuno ormai non lo sappia, comunque è una radio indipendente, autogestita e dal basso che esiste dal 1977, una radio di compagne e di compagni, e Tabula Rasa è una trasmissione che si occupa di libri. Noi diciamo così, leggiamo i libri per voi, non stiamo qui a raccontare che è una trasmissione che narra di letteratura, no, è una trasmissione che parla di libri, e quindi oggi partiamo da un libro per affrontare un argomento che invece è abbastanza attuale, ma è attuale un po' da sempre, perché è una delle questioni che hanno sempre impegnato il mondo, tra virgolette, intellettuale, e comunque tutta la produzione culturale. Partiremo da un libro che c'è, che come redazione ci è piaciuto molto, ma c'era una parte che invece ci ha convinto meno, ma non in quanto tale, perché invece crediamo che sia un argomento su cui dibattere. Però il libro di Francesco Piccolo, che si chiama La bella confusione, un libro che va a raccontare attraverso la... va a raccontare attraverso la storia di due grandissimi registi che sono Visconti e Fellini. In qualche modo va a raccontare uno spazio dell'Italia del dopoguerra, perché dagli anni 50 in poi si parla dell'Italia del dopoguerra, né più né meno. È un libro che a me è piaciuto. Scusate che c'è una parte del mio microfono che funziona un po' meno. Però all'interno del libro c'è tutta una parte dedicata, no, all'epoca, all'egemonia culturale, no, al contrasto che c'era dall'ex DC e l'ex PC, perché ormai si può parlare di ex, perché qualcuno dice che ormai è finita anche la Seconda Repubblica, e questi erano la Prima Repubblica, e quindi parliamo di questo. E attraverso appunto questa tutta una serie di aneddoti, no, in cui è costruito questo libro, che a me è divertito e anche interessato, cioè appunto c'è questa parte che va a raccontare questa storia, e su cui invece come redazione di Tabula Rasa ci siamo trovati tutti abbastanza uniti nel dire ok, questo è un punto invece che va sviluppato di questo libro, perché noi pensiamo che il dibattito sull'egemonia culturale è un dibattito a parte attuale, perché lo è attuale sempre, poi in questo momento, no, da psicosi, da ennesimo governo di centrodestra, in questo caso un po' più a spostare a destra visto qual è il personaggio, quindi si pensa che ci sia in atto un attacco nuovo, invece a nostro avviso l'attacco è sempre lo stesso, e quindi non staremo stasera a parlare di politicamente corretto o quella che molti chiamano, no, la cancel culture, anche se noi riteniamo che invece quella che negli Stati Uniti chiamano culture war, ossia una guerra culturale, invece è in atto anche nel nostro paese, anche nel continente europeo, e non è in atto da ieri o da oggi, è in atto già da parecchio tempo. Io ora lascio la parola all'altra mia collega di Tabula Rasa, Tiziana, per continuare questo ragionamento e introdurre, no, il primo spunto della serata. E allora, grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qua. Volevo intanto presentarvi i nostri ospiti, vedere capire con chi siamo qui a parlare di questa bella confusione che è l'egemonia culturale in Italia. E siamo ovviamente con l'autore del libro che ci ha fatto tanto discutere, che è La bella confusione, appunto Francesco Piccolo, che insomma, è uno dei più importanti scrittori italiani, sceneggiatore, premio Strega, con un libro che si intitolava Il desiderio di essere come tutti, e che aveva a mio parere molto a che fare con l'egemonia culturale, e veramente tanto. Quindi diciamo, Francesco è uno scrittore che si interroga tantissimo in realtà su quello che sta succedendo al nostro paese dal punto di vista politico. Lui lo dice sempre: io sono un uomo di sinistra che riflette, diciamo, sulla sinistra. E poi abbiamo a seguire Monica Pietrangeli è una giornalista e anche sindacalista, ed è anche un'attivista femminista che conosciamo da tanti anni, e con lei ovviamente affronteremo tutto quello che sta accadendo nel mondo dell'informazione, e anche, diciamo, tutto quello che invece può accadere negli spazi fuori, chiamiamoli così, dal mainstream. Poi abbiamo Michele Rec, appunto, Zero Calcare, difficile ormai presentarlo, è un artista di fumetti, in questo momento c'è la sua bellissima serie su Netflix, la seconda, perché ne ha fatte già due. E poi abbiamo Giorgia Serughetti. Giorgia Serughetti è una filosofa, una professoressa di filosofia politica alla Bicocca a Milano, ed è anche una scrittrice, ha scritto un libro, a mio parere, veramente interessante per comprendere quello che sta accadendo in questo momento. Come diceva lei prima, probabilmente l'ha scritto troppo in anticipo, perché è un libro del 2021, ma racconta benissimo quello che sta succedendo adesso. Si intitola Il vento conservatore ed è appunto pubblicato dalla Terza. E per iniziare il nostro discorso, io darei la parola a Francesco, e spiegandogli anche perché, diciamo così, vogliamo iniziare a parlare e cos'è che ci ha fatto discutere. Praticamente è un, diciamo, come dicevamo prima, il libro racconta questa concorrenza, amicizia e inimicizia fra questi due registi, Visconti e Fellini, ma racconta anche come i due più grandi partiti di massa dell'epoca, dice PC, si facevano in qualche modo una guerra culturale attraverso però delle opere di ingegno, delle opere intellettuali, delle opere artistiche che erano dei film pazzeschi, dei libri pazzeschi, appunto Il Gattopardo, che è uno dei libri più importanti della storia della letteratura italiana, che è diventato uno dei film più importanti della storia del cinema italiano, e appunto Visconti, che però viene visto all'inizio come un libro conservatore, quindi come un libro che in qualche modo il PC rifiuta come simbolo, diciamo così, di conservatorismo totale. Lo rifiuta talmente tanto che quando invece è Visconti, cioè un regista comunista di sinistra, organico, diciamo così, a sceglierlo, succede un po' un terremoto all'interno del partito. Dall'altra parte abbiamo Fellini, sostenuto dalla DC, sostenuto dal Movimento Cattolico Italiano, e questo, diciamo così, e con un'ingerenza vera da parte dei partiti nei confronti di queste opere, tanto che c'è stato qualcuno che è stato persino pagato, diciamo così, dalla Democrazia Cristiana per andare in giuria a Venezia per non far vincere Senso di Visconti, per esempio. No, cioè così era, cioè l'ingerenza era veramente pesante. Ecco, Francesco Piccolo, raccontando questa cosa, prende le distanze, no? Da questo tipo di ingerenza. Vai, Bix. Anche perché in tutto questo Gramsci, e ora non staremo qua, no, a raccontare Gramsci e tutto, non era passato neanche troppo tempo da quando Gramsci parlava dell'importanza dell'egemonia culturale e tutto, e quindi era anche naturale che nell'immediato dopoguerra quei due grossi blocchi, quello della Democrazia Cristiana e del PC, si contendessero la platea della cultura. Ovviamente io, parlando anche per Radio Onda Rossa, se nella sua storia tutto ha fatto tranne che difendersi il PC, anzi dal 77 in poi faceva parte di quell'area che era antagonista al PC all'interno della sinistra, e non ci interessa neanche trovare la quadra all'interno, no, del mondo sì sinistra sull'egemonia culturale, però ci andava di ragionare, no, su ideologia, non ideologia, all'interno, no, del mondo culturale. Ed è questo infatti, no, che nel libro di Piccolo, che lui ha preso posizione invece su quello che era all'epoca, in maniera anche abbastanza onesta e diretta, senza farsi nessun problema. Prego. Allora, buonasera a tutti. Cerco di ricostruire anche un po' per quelli che non l'hanno letto, perché appunto Tiziana ha accennato un po' a quello che è successo. Per cercare di sintetizzare, si può dire che in quell'epoca, in quegli anni, un libro e un film erano al centro del dei problemi del paese, cioè coinvolgevano il paese, coinvolgevano la politica e addirittura coinvolgevano i governi, appunto, visto che un governo è intervenuto direttamente per non far vincere un film a Venezia, perché quel film era di un regista comunista e perché quel regista comunista aveva fatto un film sul Risorgimento e aveva messo una storia d'amore dentro il Risorgimento, e tutti ne avevano il terrore. Senso è un grandissimo capolavoro, ma ovviamente quando tutto questo è stato fatto nessuno l'aveva visto. E qui entriamo in argomento, perché tutto quello che è stato costruito su senso, tutto quello che è stato costruito su, sulla strada contemporaneamente, perché senso e la strada erano contemporanei, cioè che una rivista cattolica ha detto secondo noi questo film è importante, e da quel momento il PC ha condannato per anni Fellini perché una rivista cattolica aveva detto che quel film era importante. La cosa importante da dire è che in pratica non aver visto ancora quei film, perché quei film prima che andassero a Venezia non li avevano visti, e averli visti dopo non ha cambiato nulla delle posizioni, nel senso che le posizioni erano pregiudiziali, nel senso che quello era un film che non andava bene per la Democrazia Cristiana e andava bene per i comunisti. Infatti è uscito a Venezia, tutti i critici di sinistra, che allora erano i critici cinematografici quasi interamente, perché avevano come simbolo, diciamo, guida Guido Aristarco, che era un grande critico cinematografico marxista, ed erano tutti marxisti, e dal punto di vista del marxismo dicono che Senso è il film che invece deve vincere Venezia perché è un capolavoro. Dal punto di vista marxista dicono che La strada è il fallimento totale di un regista, e che quel regista praticamente ha perso la sua strada, dice un cronista dell'Unità. Dopo molti anni, anzi in quegli anni esce Il Gattopardo, e sul Gattopardo si rifà la stessa questione. Sul Gattopardo, Il Gattopardo esce, e sulle prime, sull'Unità, che era il giornale che tutti leggevano allora, si dice che è un bel romanzo con qualche riserva letteraria, e poi a un certo punto Leonardo Sciascia, e qui secondo me la cosa interessante, perché non soltanto il partito ma anche quelli che erano, come dire, considerati un po' degli eretici, oppure anche quelli che se ne erano usciti dal partito per delle ragioni politiche serie, prendono una posizione molto dura e dicono che è un libro, diciamo, più che conservatore reazionario, e Moravia dice che è addirittura un libro di destra. E quindi il PC si rende conto che sta per essere superato dai suoi eretici nelle condanne, e decide di condannarlo in maniera plateale, prendendo il suo massimo rappresentante Alicata e dandogli il compito di fare una stroncatura di 30 pagine sulla rivista di sinistra più importante di quel momento. Non vi racconto tutta la storia, ma a un certo punto sono tutti convinti di questo, ma arriva lui Aragon, che è il più grande pensatore di quegli anni, riconosciuto in tutta Europa come il più grande pensatore di quegli anni, e dice: non avete capito niente, perché questo è un grande libro di sinistra, confondete il personaggio con l'autore. E a quel punto entrano in crisi tutti, perché poi arriva anche Lukács, che è il grande critico di sinistra marxista di quegli anni, che dice che mette Il Gattopardo tra i due libri, tra i due romanzi storici più grandi del Novecento. E a questo punto il PC si trova completamente spiazzato. Arriva questa notizia in Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica dice: vogliamo pubblicare Il Gattopardo. Il problema è che però il Partito Comunista Italiano lo ha condannato. Come facciamo? Viene convocato Togliatti e dicono: noi vogliamo pubblicare Il Gattopardo, vedi come devi fare. Togliatti fa una cosa geniale: chiama Alicata, che è quello che aveva scritto la stroncatura, e gli fa scrivere l'introduzione al libro Unione Sovietica, e Alicata lo scrive praticamente uguale questo saggio è stato pubblicato poi nell'Unità nel 92, non prima in Italia. Lo scrive uguale, cambiando soltanto il giudizio: tutte le cose che scriveva prima erano negative, adesso tutte le cose che scrive hanno un elemento positivo. E così Togliatti riaggiusta tutto. Un critico cinematografico inglese di quegli anni, dato che l'Italia aveva i registi più grandi del mondo, decide di venire a fare il corrispondente in Italia. Quando arriva, gli dicono i critici marxisti: con chi stai, con Visconti o con Fellini? E lui si permette di dire: a me piacciono tutti e due. E loro dicono: non va bene, devi scegliere o Visconti o Fellini. E lui capisce che per stare lì deve scegliere Visconti, perché se no lì non ci può stare. Nel tempo abbiamo imparato ad amare Visconti e Fellini e a fregarcene di tutte queste cose. qual è la questione, mi sembra, che stiamo ponendo qua? La questione che stiamo ponendo qua è che in quell'epoca c'erano due grandi fattori. Il primo è che i libri e i film, come vedete, erano al centro del dibattito politico e sociale italiano, e l'altra è che al centro di questo dibattito si ragionava solo per posizioni ideologiche preordinate, e da questo, come dire, io prendo le distanze, e come. Infatti, invece noi che siamo... che ci abbiamo, no, un problema, perché siamo un po' vetero. Il tempo si è fermato. No, ma tutt'altro, no, il tempo per fortuna o purtroppo, non so, fate un po' voi, non si è fermato, siamo nel 2023, è abbastanza evidente, se il tempo te fosse fermato non avrei mezza piotta e quindi no, avrei ancora 20 anni, e no, il tempo va avanti. E non volevamo dire questo, però invece noi riteniamo, no, che quello che manca al mondo culturale, no, alla produzione, al grosso della produzione culturale del nostro paese, invece è proprio il discorso ideologico. Sarà che noi siamo portatori, no? Noi, cioè, ce ne vantiamo di essere ideologici, e ne parlo, no, come Radio Onda Rossa e anche come Compagni, perché si sente, o Compagni perché si sente così. Però invece noi riteniamo, no, che avere un pensiero politico forte sia ancora tuttora principale ed importante, e anche al centro, no, non dico della produzione che fa un autore o un'attrice, non ci interessa questo, però è proprio al centro un po' di tutto, perché invece riteniamo, no, che l'aver ideologizzato un po' tutto abbia poi portato a un annacquamento che non si capisce un po' più niente, quindi no, si può stare oggi di qua, domani di là e via dicendo. Invece no, c'è stato un discorso un po' più particolare. Ad esempio, nel libro di Giorgia Serughetti vengono affrontati alcuni passaggi di quella che è la trasformazione, perché c'è una trasformazione, perché noi possiamo pure dire l'ideologia è cacca pupù, allontaniamoci così, va bene tutto, però dall'altra parte c'è invece chi una guerra te la sta facendo al di là, no? Uno può pure dire no, a me, io non voglio giocare a sto gioco, e può pure non giocarci, però qualcuno lo sta giocando, sta facendo la partita e la sta anche vincendo, anche in maniera non indifferente. Perché all'interno del libro di Giorgia, Il vento conservatore, edizione La Terza, se non sbaglio, ci sono dei passaggi molto importanti. Ci sono dei passaggi importanti proprio su questa cosa della guerra culturale in atto, perché è vero, possiamo, e nessuno penso che voglia tornare all'ingerenza totale della politica verso la libertà d'espressione degli artisti e degli intellettuali, su questo nessuno mette bocca, però se diciamo gli intellettuali e le intellettuali di sinistra si sottraggono, quelli di destra direi che proprio non si stanno sottraendo a questa lotta, anzi la stanno portando avanti con veemenza. E nel libro di Giorgia Serughetti, che vi invito a leggere se non l'avete fatto perché è illuminante su alcune cose, si fa una disamina di quello che sta succedendo, e Giorgia riesce, nemmeno con una capacità di sintesi notevole, a sintetizzare i tratti più significativi della destra conservatrice che abbiamo in questo momento al governo. Il primo elemento con cui diciamo vorrei far partire Giorgia è la questione dell'identità. Non so se sapete che la destra ha fatto una 3 giorni sull'identità nazionale, no? qualche settimana fa, un paio di mesi fa, e quindi loro sono, diciamo, portano avanti questo concetto, diciamo, della destra identitaria, della nazione, eccetera. Però il concetto di identità, come sappiamo, può essere un concetto di destra e può essere anche un concetto di sinistra. Ecco, la prima cosa che vorrei, proprio sull'egemonia, la prima cosa che vorrei chiedere a Giorgia è di spiegarci che cosa cambia quando l'identità viene trattata a destra e quando l'identità invece viene trattata a sinistra. Grazie, ci arrivo allora. Però volevo dire 2 cose su quello che ho sentito prima, perché una delle cose che colpisce di più del libro di Francesco Piccolo ricalandosi alla metà del Novecento, è proprio la rilevanza, il peso della cultura, no? Di come un'opera, appunto, di ingegno, un film, un libro potessero essere oggetto di una contesa proprio anche feroce, no? Tra parti politiche, appropriarsene, respingere quella che l'altra parte aveva fatto propria e quindi poi provocare anche appunto degli schieramenti estremamente intransigenti, no? Quindi che non si poteva concedere nulla all'avversario, quello che un po' critica Francesco, poi in fondo è quello quanto in qualche modo l'ideologia poi spinga, cioè riduca, diciamo, anche la libertà di pensiero, no? In questo, come dire, in una lunga tradizione che ci viene da Hannah Arendt e via dicendo. Però la cosa sconcertante, prima di tutto, è quello, l'importanza che aveva tutto questo, no? E che è davvero questione del passato. Cioè, oggi non se ne frega niente nessuno di che cosa viene prodotto al cinema o di che cosa va nelle librerie. Un po' perché è annacquato in una quantità gigantesca di produzione culturale che non ha praticamente nessun valore in larga parte, no? E questo è sicuramente vero. E un po' perché c'è stato un divorzio consensuale tra politica e cultura, in particolare tra politica e ruolo degli intellettuali. Gli intellettuali non hanno niente da dare alla politica, la politica non ha niente da chiedere agli intellettuali, quindi non si darebbe mai il caso di una contesa alla Mostra del Cinema di Venezia per far vincere, no, il film che meglio interpreta un certo sistema di valori. Oggi in qualche modo quello che fa la destra quando convoca gli stati generali della cultura sembra una mascherata, una messa in scena, va presa sul serio, che poi ha delle ripercussioni, sicuramente lei che lavora in Rai ce lo dirà, cioè poi significa mettere delle persone nei luoghi di produzione della cultura, quindi veicolare dei messaggi eccetera, e siccome abbiamo appena celebrato, diciamo, il funerale di colui che ha dominato la scena politica e culturale e mediatica dell'ultimo trentennio, sappiamo di cosa parliamo. Sappiamo che comunque chi poi è lì, insomma, come dire, domina la narrazione mediatica e quel tipo di discorso, sebbene non sia un discorso di alta cultura, ma sia comunque costruzione di egemonia, cioè sappiamo che questa cosa conta moltissimo, però sicuramente sembra essere lontano da quella forza, no? Di quella forza culturale del tempo e sicuramente dall'interesse che allora tutto questo suscitava. Quello che tu raccontavi un po' come la fine, no, ancora il discredito sulle ideologie, che poi è stata raccontata come la fine delle ideologie, no? In realtà, come sappiamo, è stata la vittoria di un'ideologia, cioè è stata la copertura, diciamo, dell'intero campo politico e culturale da parte di una non ideologia che però era profondamente ideologica, cioè il discorso neoliberista, quello per cui c'era un solo mondo possibile, una sola realtà possibile, quel realismo capitalista di cui parla Mark Fisher, se qualcuno di voi l'ha letto, che ti fa perdere interamente di vista l'idea che qualcos'altro possa essere, no? Il famoso There is no alternative di Margaret Thatcher è a seguire, cioè non c'è nient'altro, non c'è nessuna possibilità diversa, ma questo è profondamente ideologico. Quindi è stata in realtà la vittoria di un'ideologia e tra l'altro nel nostro paese interpretata e incarnata proprio da quella persona che abbiamo appena seppellito, che è Silvio Berlusconi. Quindi in realtà l'egemonia che oggi si dice che la destra deve, no, compattarsi, combattere una controffensiva culturale controegemonica, sconfiggere l'egemonia di sinistra, l'egemonia della sinistra è finita 30 anni fa e più. E da non solo 30 anni che l'egemonia è quella, non è l'egemonia culturale nel senso dell'alta cultura, nel senso che quella destra non ha prodotto nulla in termini di appunto cultura cinematografica, narrativa, televisiva, cioè, ha prodotto però un discorso, no? E quel discorso ha costruito consenso e come sapete l'egemonia, no? Da Gramsci in poi fondamentalmente significa quello, cioè riuscire a esercitare potere attraverso il consenso, non attraverso la costrizione, e in effetti poi in democrazia il consenso si traduce in voti, si traduce in vittoria elettorale, e infatti, no? Ed è andata esattamente così. Peraltro la vittoria vera di quella parte è stato il fatto che è riuscita a conquistare l'altra parte, cioè fondamentalmente non c'è più stata un'alternativa, non c'è più stata una parte, no, avversa al berlusconismo, cioè appunto Thatcher diceva che il suo maggiore successo era Tony Blair. Altrettanto potremmo dire che Berlusconi il maggiore successo è stato dissolvere interamente l'alternativa, no, di sinistra, e questo è un po'. Allora, in queste macerie, cioè in questa coltre del neoliberismo come ideologia, cosa succede? Che poi a un certo punto anche tutta questa narrazione un po' frana, giusto? Cioè ci si rende pure conto che non si sta poi così bene, perché la narrazione neoliberista è quella per cui tendenzialmente, grazie al fatto che ci facciamo orientare dalle logiche del mercato, tutti stiamo meglio, no? Gocciola la ricchezza dall'alto in basso, ognuno si fa impresa di sé e tutti in qualche modo ci arricchiamo, stiamo meglio, eccetera, eccetera. Non funziona, non funziona, si vede benissimo nel 2007-2008 con la crisi economica, e qualcosa si infrange. E quando qualcosa si infrange, succede che avviene una controffensiva, una rivolta, no? E quella che poi è stata chiamata populismo, che nella sua versione di destra appunto mobilita l'identità. Questa l'identità riempie tutto il campo lasciato vuoto dalle ideologie, per certi versi, no? Dallo scontro tra diverse visioni del mondo, e sicuramente lo riempie a destra, dove l'identità significa ordine, natura, famiglia, patria, no? Fondamentalmente, oppure Dio, patria e famiglia, insomma, come lo vogliamo chiamare, però quella è la versione dell'identità che vince a destra, che in sostanza promette uno sguardo indietro, no? Promette di ritornare ad un mondo più caldo, più chiuso, più confinato, no? Più gerarchico anche, dove chi si trova in cima alla scala gerarchica può sentire di avere un posto nel mondo, no? Che sostanzialmente può pensare di aver perso e che quindi in qualche modo gli viene riconsegnato ad ogni modo a qualcuno sotto. E questo è molto importante per sentire di non essere l'ultimo gradino, no? Cioè i penultimi possono almeno sentire di non essere gli ultimi, e questo è un meccanismo, diciamo, identitario che funziona molto bene. A sinistra in realtà le identità erano state già mobilitate da molto tempo. Quando si parlava di politica dell'identità a partire dagli anni 70, si parlava della politicizzazione di dimensioni come il genere, la sessualità, la razza, eccetera, no? E tutto questo in qualche modo è stato, cioè resta in vita, nel senso è ancora molto forte l'aspetto identitario anche nella politica dei movimenti, anche nella sinistra, anche se c'è un tentativo, secondo me molto giusto, di rompere anche con alcune gabbie identitarie, no? Di una politica di movimento post-identitaria, cioè molto più universalista e più, diciamo, legata a questioni forti, materiali. Però ecco, quello che tu mi chiedevi, Tiziana, poi in fondo è qui, nel fatto che mentre l'identità è stata a lungo una questione di sinistra e politicizzazione delle identità, oggi in qualche modo quello che gli si contrappone è la politicizzazione di un'identità, che è l'identità, e che è l'identità delle maggioranze, che non vogliono più diritti per, no? Per chi è escluso, ma vogliono escludere chi, no? Loro pensano debba avere meno diritti. È proprio profondamente diverso come approccio. Però ad esempio, mentre Tiziana prende il microfono, il Black Lives Matter, che funziona negli Stati Uniti, rompe anche, no? Certo. Parecchi paletti e arriva anche nel mainstream, funziona quando riesce ad allargarsi e a farne anche una questione soprattutto di classe. Appunto, no? Nel senso che non era semplicemente la rivendicazione, la polizia ci ammazza in quanto neri, e quindi poi si apre tutto, no? Il dibattito sul il definanziare la polizia, sull'abolire addirittura la polizia e via dicendo, ma funziona e diventa forte e dirompente quando diventa una questione di classe, ossia non siamo semplicemente neri e quindi, no? Vessati in quanto neri. Siamo vessati in quanto neri e proletari o poveri, no? Trovatelo voi il termine, io preferisco in questo caso proletari perché dà un'identità di classe, e lì infatti poi ha accorpato ed è cresciuta, perché poi al di là di, tu nel libro ne parli, no? Del libro di Coso, non mi ricordo il nome, l'identità non è di sinistra, che io ho anche letto, esatto, di Lille, che l'identità non è abbastanza, ossia l'identità finisce quando non c'è l'intersezione, esatto, nei conflitti. Se è semplicemente rappresentazione della propria identità, diventa un qualcosa di riserva indiana. E poi soprattutto appunto quando invece l'identità serve a far entrare altre esistenze e altre, diciamo così, persone che fino a un certo punto sono state lasciate ai margini, a quel punto è un allargamento delle libertà e non certo appunto una chiusura, come invece può essere appunto l'identità nazionale. E passando appunto a Momi, ovviamente a lei noi chiediamo di darci un po' conto di quello che lei, dal suo punto di vista privilegiatissimo, ci può raccontare, secondo lei, come si sta costruendo. Bizz, vuoi dire cosa? No. Come si sta costruendo il consenso in questo momento, appunto? Cosa sta succedendo? Allora, cosa sta succedendo oggi dal punto di vista dell'informazione? Intanto volevo dire che io ho letto con grandissimo interesse ed è godibilissimo il libro di Francesco Piccolo, e l'ho letto un po' con l'occhio dell'archeologa, dell'entomologa, no? Più che neanche della storica, perché è talmente pieno di dettagli, di ricostruzioni che lo rendono appunto un libro estremamente godibile. E proprio a partire da questo e da quello che diceva anche Giorgia sulla questione dell'egemonia culturale legata ad un periodo in cui c'erano delle ideologie molto forti, mi viene da dire che oggi forse non parlerei tanto di egemonia culturale quanto di creazione del consenso, perché l'egemonia culturale, per certi versi, se vogliamo come dire, risalire all'idea nobile che ne aveva Gramsci, era in fondo il tentativo di costruire degli strumenti per le classi subalterne per acquisire coscienza e assumere responsabilità, no, nei confronti delle loro esistenze. Oggi mi pare che non stiamo esattamente parlando di questo, ma stiamo parlando di creazione culturale, anche perché, appunto, come diceva anche Giorgia, c'è da parte della destra una difficoltà ad entrare nel mondo della cultura. Gli stati generali della cultura nazionale sono stati un tentativo ridicolo, ma non da sottovalutare, proprio perché loro stanno tentando in qualche modo di far crescere anche una classe intellettuale all'interno del loro mondo di destra. Quindi partiamo da un'assenza, però questa assenza non significa che non sia pericoloso quello che stanno facendo, e anzi direi che hanno messo in piedi dei meccanismi che sono molto molto come dire, sarebbero molto interessanti se non fossero preoccupanti, ecco, diciamola così. Io parto per esempio da una cosa che chiaramente mi è molto vicina, no? Il tema per esempio della GPA. Qual è il discorso che viene fatto? Viene utilizzato moltissimo per esempio Eugenia Roccella, la ministra per le pari opportunità e per la famiglia, sorry, della natalità. Che cosa avviene lì quando lei comunica sui temi legati alla GPA? Avviene un meccanismo che è molto interessante, perché Eugenia Roccella conosce molto bene il discorso femminista e utilizza le stesse argomentazioni che purtroppo, insomma, diciamo in modo non positivo stanno animando, che non siano positive lo dico io, il movimento femminista e transfemminista sulle questioni legate alla GPA, quindi alla riproduzione per altri. E quindi c'è un meccanismo assolutamente astuto e anche molto, molto informato su come utilizzare le ragioni del nemico, tra virgolette, e anche la capacità di ribaltamento delle argomentazioni, per certi versi. Poi c'è un'altra cosa che se osservate bene la costruzione anche della comunicazione avviene in modo programmatico: l'elusione delle istanze della società organizzata, dell'associazionismo dei movimenti, e nel senso di, come dire, una sorta di indifferenza decisa a monte nei confronti di tutte le istanze che vengono dalla cosiddetta società civile. Non è un termine che mi piace, ma soltanto per capirci: l'associazionismo, i movimenti, eccetera. Qui non voglio neanche arrivare a parlare dei nostri, del mio mondo, che è appunto quello del mondo LGBTQ, IA+, ma parlo di una cosa che mi tocca fino ad un certo punto, insomma, che mi interessa come giornalista, ma mi tocca meno dal punto di vista personale. La commissione antimafia viene istituita e alla presidenza viene indicata da Giorgia Meloni, che su questo è irremovibile nella maniera più assoluta, Chiara Colosimo, che è una sua sodale, una che ha fatto politica con lei da giovane, una diciamo Giorgia Meloni in nuce. la quale però, come dire, suscita subito in qualche modo la preoccupazione di tutto l'associazionismo che è legato alle questioni dell'antimafia, perché lei ha relazioni, diciamo, di vario tipo, poi in qualche modo raccontate in una puntata di Report sulla RAI, ma insomma trovate approfondimenti su parecchi giornali con Luigi Ciavardini, che insomma, militante dei NAR, è implicato nella strage di Bologna, il quale nel corso del tempo da detenuto ha messo in piedi una serie di due associazioni, se non sbaglio, che lavorano per la formazione, lavorano all'interno delle carceri. Però questa cosa che, come dire, ha suscitato la preoccupazione delle associazioni che lavorano appunto nell'ambito dell'antimafia non ha scalfito in nessun modo, e stiamo parlando appunto non dei movimenti estremisti, ma dell'associazionismo assolutamente all'interno dell'arco costituzionale, ha in qualche modo, come dire, non ha sfiorato neanche un po' la decisione della Premier di mettere questa persona a capo dell'antimafia. Poi c'è come dire, un meccanismo che è quello della polarizzazione delle posizioni e della creazione del nemico, in cui il Berlusconi è stato in qualche modo l'emblema, cioè la creazione di un nemico. All'epoca sua era il comunismo, che già non c'era più in Italia diciamo, da un bel po' di tempo, almeno a livello di partiti istituzionali, e però diciamo quella narrazione che polarizza in qualche modo e riduce poi al silenzio l'altro perché lo schiaccia. Tanto che, insomma, la sinistra istituzionale, lo vediamo benissimo, è stata completamente schiacciata nella difesa delle regole, nella difesa della Costituzione, senza riuscire più a fare nessun tipo di analisi di tipo sociale, di tipo economico, eccetera, eccetera. E ora, in qualche modo, per cercare di contrapporsi al governo, cavalca i temi dei movimenti, che sono quelli dei diritti. L'altra cosa è, come dire, il rifiuto ideologico di una lingua declinata, della lingua di genere. Io di questo ne so abbastanza, perché insomma, su questo mi sono, come dire, ho fatto, come sindacato abbiamo fatto anche dei comunicati stampa. Siamo stati forse una delle poche realtà che si è espressa contro l'utilizzazione del maschile anche per le cariche politiche. Però questa cosa ha, all'interno di questo discorso che dicevo di polarizzazione, ha, come dire, dato un'indicazione precisa, cioè la lingua che è declinata, viene declinata non perché c'è un'ideologia dietro, ma perché c'è una grammatica che indica i femminili e i maschili, invece è stata fortemente ideologizzata e ha in qualche modo, se tu parli al femminile prendi una posizione politica oggi come oggi, fondamentalmente. Insomma, questo è quello che è riuscito a fare lei. E poi naturalmente c'è una massiccia occupazione di tutti i posti chiave dove avviene la produzione culturale, ma anche il pensiero sociale e politico, e quindi in questo senso chiaramente c'è come dire, un meccanismo che è un meccanismo cioè anche banalmente pratico, però insomma è chiaro che il meccanismo è, per esempio, mi viene in mente il Maxi, no? Dove c'è stato un cambio e c'è adesso, come si chiama? Giù. Esatto, che è un sodale di Giorgia Meloni, uno dei suoi mentori, e la persona insomma che la aiuta a intervenire proprio su queste tematiche. Mi fermo per ora qua. Ma io stavo per fare una battuta che non vorrei fare, che tra Melandri e Giulia è una bella lotta, però, nel senso che è abbastanza complicato, no, andare a difendere Melandri con Giulia, e questo forse è un po' il problema, nonostante Giulia è quello che è, vabbè. Per ultimo, invece, volevo coinvolgere Michele, non si è abituato ad essere chiamato per ultimo, intervenire per ultimo, che invece. è uno da nel senso che, in quanto appartenente di questo mondo, e per questo mondo intendo anche il luogo dove siete oggi, no? Perché una cosa che si può dire a Michele, a cui non farò mai nessun complimento, perché in quanto amico e maschio di periferia non si fa i complimenti, cioè l'unico complimento è a coglione, cioè se fermiamo qua, però è uno dei pochi che riesce a portare a livello di mainstream degli argomenti che sono prettamente politici, non identitari ma ideologici, perché questo è. E l'hai fatto anche con l'ultima serie, che io non ho visto completamente, però l'hai fatto anche molto con l'ultima serie, sei riuscito ad accollarti, no, il racconto di quello che fanno i fascisti nei quartieri e nelle periferie, visto che spesso e volentieri informazione ha raccontato, no, e ha creato dei mostri anche nel racconto di quello che sono i conflitti nelle periferie, tu invece sei riuscito a produrre, no, a confezionare un prodotto mainstream che fosse sia politico che allo stesso tempo politico ideologico, che allo stesso tempo però riuscisse a essere assimilabile a chiunque, tanto che il successo era anche abbastanza scontato e inevitabile, però c'è un distinto senso. Tu come ti ritrovi nel mondo culturale della produzione editoriale e cine televisiva, perché di questo fai parte con i tuoi colleghi, le tue colleghe, perché tu sei uno dei pochi, lo dico sinceramente, che riesce ancora a tenere la barra dritta, almeno dal nostro punto di vista, che è quello dei marginali, tra l'altro, che non so quanto può essere importante il punto di vista di chi sta ai margini e conta come manco il due le coppe, cioè meno del due le coppe, non so che c'è, però c'è, quello siamo noi. Allora, beh, intanto ciao a tutte e a tutti, e io non sapevo un cazzo di quello che mi sarebbe stato chiesto, che dovevo dire, e quindi vado un po' a braccio sulla domanda che mi hai fatto, anche raccogliendo alcune cose che sono state dette prima. Per rispondere alla domanda, parto anche un attimo da quello che era anche il contenuto di quel passaggio in particolare da cui siamo partiti, del libro di Francesco Piccolo, che io capisco molto bene quando lui dice che probabilmente c'era anche qualcosa di asfissiante come peso della politica sul mondo dell'arte e della cultura, e che quindi rendeva difficile probabilmente produzione libera, eccetera. Però io sono uno di quelli che, leggendo quelle pagine, ha pensato che c'era comunque qualcosa di incredibilmente vivace dal punto di vista culturale e intellettuale in un'Italia in cui i partiti in qualche modo si facevano una battaglia sull'immaginario, cioè che i prodotti artistici non fossero valutati soltanto come cose che dovevano andare al cinema e rientrare dei fondi stanziati, ma come qualcosa che serviva a veicolare una visione del mondo, e la cui battaglia si faceva anche su quella cosa là. Perché penso che poi, come diceva Serughetti, c'è una parte che ha smesso di farlo sostanzialmente, e c'è un'altra parte che apparentemente ha smesso di farlo, ma che in realtà ha, cioè l'ideologia appunto l'ideologia della fine delle ideologie, in qualche modo ha prodotto poi quello che c'è stato adesso. E io non, nel senso, rispetto ai miei colleghi, tra virgolette, allora partiamo dal presupposto che io penso, cioè non mi metterò mai a fare l'apologia delle cose che faccio io, che secondo me sono una roba piena di maldestrità, errori, eccetera, quindi non sto mai a giudicare la qualità della roba mia, che può essere una monnezza, sto parlando, diciamo, della molla che mi spinge, e è che a me mi sembra che per molto tempo, quando si diceva che allora è vero che per molto tempo i posti chiave della cultura sono stati occupati da persone che facevano parte di quello schieramento lì. Il problema è che non li hanno utilizzati per veicolare immaginario e valori riconducibili a quello schieramento, a quell'ideologia. In realtà, quando abbiamo parlato adesso, l'ultimo scambio del passaggio di consegne tra Giuli e la Melandri, un po' ci racconta questo, che decenni di gestione Melandri del Maxi, io non so quanto si possa dire che il Maxi è stato un veicolo, sicuramente anche delle cose molto belle, cioè nel senso delle cose eccetera, No, ma no, no, cioè penso che ci hanno lavorato persone, ma no, io la considero il punto più basso del Maxi, molto più basso del Giulio nel momento della mostra mia. Cioè, secondo me ci sono state delle cose che sono state anche molto alte dal punto di vista, eccetera, ma sicuramente non sono state guidate su, diciamo, ispirate a una visione del mondo che doveva trasmettere qualcosa, eccetera. Questo penso che ha caratterizzato un sacco di persone e in particolare, secondo me, ha caratterizzato soprattutto le opere. Nel senso che io, noi abbiamo un miliardo dei cosiddetti intellettuali di sinistra, che sono sostanzialmente sempre gli stessi, nel senso, ma purtroppo mi ci metto pure io, nel senso che quando uno guarda i festival più o meno di sinistra ci stanno sempre gli stessi nomi, sono sempre le stesse persone che parlano, eccetera. In questa cosa qua però quante di queste persone utilizzano le loro opere e la costruzione, cioè quello che fanno le cosiddette opere d'ingegno per costruire un immaginario che vada in quella direzione? Perché io ho l'impressione che questa cosa qui venga fatta attraverso, cioè se definisce una persona un cosiddetto intellettuale di sinistra, se firma gli appelli o dice delle cose nelle interviste, che sono cose sicuramente molto giusta, che in parte faccio pure io quando mi viene chiesto, eccetera, però ho l'impressione che questa è esattamente il tipo di cosa che produce l'effetto inverso, nel senso che secondo me l'intellettuale sinistra che firma l'appello contro, non lo so, contro a favore del Mediterraneo o contro quell'altra cosa, eccetera, io non ho l'impressione che sulle persone produca poi consenso intorno a quel tema. Io ho l'impressione che la lista di quegli appelli è la lista, cioè quando tu vai a guardare chi l'ha firmato, poi le persone normali sono le persone antipatiche che ti fanno la predica e che stanno, firmano quella cosa lì e vedi quella serie di nomi che ti sembrano dei nomi lontanissimi da te, che non condividono nulla della tua esistenza e che in qualche modo ti vorrebbero insegnare a campare. Questo secondo me è un grosso limite, perché io penso che le cose non andrebbero, cioè io quando parlo in interviste insomma faccio perdere punti alle persone che difendo, cioè secondo me è molto più interessante che le persone che fanno questi mestieri cerchino di produrre delle opere che veicolano quei valori e che producano quell'immaginario nella testa dei pischelli, delle persone, eccetera, e che quindi vanno a costruire un discorso che è molto più legato appunto al mestiere che facciamo, che non al prendere parola per dire che siamo quelli di sinistra, se poi quello che facciamo nel nostro lavoro in realtà non c'è nulla di sinistra, e non, né come lo svolgiamo né gli argomenti di cui trattiamo. E questa secondo me è la cosa che secondo me manca un po' e che andrebbe un pochetto recuperata, e quando ci stavano questi, appunto, questi partiti massa che in qualche modo su quella roba ci investivano, forse esisteva un po' di più, non lo so. Vabbè, i partiti massa non esistono più, anche perché la massa è chi non vota. E tra l'altro, no? Tra l'altro, noi raccontando questa storia attraverso la Ronda Rossa è da sempre è contro chi vota, quindi nel senso, tra l'altro, ma io ho detto partiti di massa, ma io nel senso che tra l'altro non c'è manco più quello, no? In questo mondo contemporaneo non esiste manco più il partito massa, qui si continuano a raccontare, no, le vittorie elettorali con un elettorato che sta al 50% o poco sopra. Tra l'altro, però, invece quello che dicevo, tra l'altro, lo condivido non soltanto perché spesso e volentieri mi ritrovo a condividere delle cose insieme, però c'è un problema. In questo ritorno a Francesco Piccolo e gli richiedo di nuovo, no? L'immaginario che si costruisce, che costruiamo, no? Attraverso quello che si scrive o si filma o via dicendo, nel senso che è un immaginario che può essere spendibile e attuale, è qualcosa, non dico di massa, perché poi ora dire di massa è abbastanza complicato perché è qualcosa molto più confuso, però è qualcosa su cui ci si può riconoscere in tante e tanti. Allora, io credo che, faccio pure un passo indietro, certo, così anche 10 no per arrivare a questo. Io credo che non dobbiamo fare confusione, nel senso che, e questo forse questo ragionamento che faccio arriva anche alla questione dell'egemonia, della possibile egemonia culturale della destra, o quella che si vuole fondare, diciamo quella che si sta fondando. Perché non bisogna far confusione, nel senso che prima di tutto, quando siamo partiti dal libro e lasciamo perdere il libro, ma parliamo del tempo in cui che racconta un tempo in cui c'erano due cose, abbiamo detto fin dall'inizio, cioè un'ideologia molto feroce, diciamo, spinta, e c'era un'età dell'oro creativa, nel senso che erano, come abbiamo detto tutti, un'epoca in cui le opere avevano valore. Credo che però queste due cose noi tendiamo a metterle insieme, e questa cosa qua è un errore. Cioè io credo che noi tendiamo a mettere insieme la presenza delle pressioni del PC o della DC o di quel tempo o degli intellettuali di quel tempo verso, o appunto dei critici marxisti, con la qualità. Quelle due cose secondo me sono totalmente indipendenti. Il fatto che oggi quelle opere hanno poca importanza nella società non sono da attribuire al fatto che non ci sono le ideologie, che poi appunto non so quanto queste ideologie siano sparite, visto che stiamo parlando proprio di sono cambiate, sono trasformate. Anzi, esatto. Cioè in questi giorni le ideologie di qualsiasi tipo, oggi sui giornali, per esempio, per fare un esempio a proposito della riforma della giustizia, ogni giornale di una parte o dell'altra parlava in una forma totalmente ideologica e totalmente lontana da quello che era la riforma, che si sia d'accordo o non si sia d'accordo, eccetera, ma ognuno diceva delle cose, il giornale dove scrivo io, Repubblica, diceva delle cose di una gravità assoluta, cioè diceva che non c'era più la possibilità, non ci sarebbe stata questa giustizia di avere più notizie su quasi tutto, cosa totalmente falsa, e però ideologicamente, per combattere quella legge, metteva in campo una cosa totalmente falsa. Questo, per esempio, è un'idea dell'uso dell'ideologia molto evidente ancora oggi. E io preferisco sempre parlare delle cose che stanno vicino a me piuttosto che di quelle, perché questa è un'altra questione, secondo me, che ci riguarda. E poi arrivo proprio a Zero Calcare, perché mi sembra la cosa più importante, quella che ha detto su se stesso. Io credo che noi un'opera creativa, perché di questo che si parla, perché appunto bisogna fare una grande differenza rispetto all'egemonia culturale o all'ideologia o all'atteggiamento militante, tra un atteggiamento militante o un'ideologia verso un'opera creativa e verso la natalità, per esempio, come dire, sono due cose completamente diverse, perché lì la natalità ha a che fare con un impegno civile, invece il mondo creativo ha a che fare con qualcosa che deve essere totalmente indipendente. Poi, se uno che ha il fuoco dentro e vuole esprimere una spinta, io credo che lo fa per una capacità creativa individuale. Io penso oltretutto che Zero Calcare dica a se stesso che, come dire, ha dentro di sé una voglia di arrivare a raccontare le cose, ma il suo modo di raccontare è talmente autodenigratorio, eccetera, parlo proprio delle opere, che lo rende immune dall'ideologismo spiccio, perché è questo atteggiamento. La cosa che secondo me un'opera creativa fa e un intellettuale dovrebbe fare, e staccandolo dall'impegno civile, perché l'atteggiamento intellettuale e l'impegno civile non sono esattamente la stessa cosa, è non essere confermativo. Cioè a me sembra che tutto, anche un po' quello che diciamo oggi, è un po' quello che stiamo dicendo stasera, è un po' confermativo. Cioè noi parliamo in un modo che ci dà consenso, perché parliamo alle persone che ci stanno vicine. Noi qui stiamo parlando, tu stai parlando, lui sta parlando, noi stiamo parlando alle persone che ci sono vicine. In altri ambiti si parla a persone che ci sono vicine. Io credo che invece un atteggiamento intellettuale debba essere un po' opposto, cioè quello di parlare quando ha da dire qualcosa che non sia confermativo. Cioè se io apro il mio giornale, qualsiasi giornale sia, poi io parlo di giornali come se stessimo negli anni 70, ma faccio un esempio, scusate, esatto. Un esempio perché io apro i giornali, apro sull'iPad, ma comunque apro i giornali, io leggo ogni mattina sempre delle cose che mi aspetto dal mio giornale, e questa cosa qua crea una mancanza di vitalità. No, però si chiama anche identità, no? Sì, però l'identità non basta. L'identità non basta, perché bisogna anche prendere la propria identità e metterla in discussione 3 giorni a settimana almeno, perché sennò non funziona. E qui arriva l'egemonia culturale. A proposito delle opere creative, non può un'egemonia culturale costruire un'intelligenza, un gruppo di intelligenti o un gruppo di talentuosi. Quindi io di questo mi preoccuperei poco. È molto preoccupante il contesto politico, è molto preoccupante il tentativo di occupare posti, è molto preoccupante secondo me che uno come Alessandro Giuli, che è una persona che era una persona libera, che uno era d'accordo o non era d'accordo, debba andare la sera nei programmi a dire delle cose che secondo me non pensa neanche fino in fondo, per poi riuscire a ottenere quello che vuole ottenere. Questa cosa qua è un'egemonia culturale di basso livello. L'egemonia culturale di alto livello, un atteggiamento come quello dell'egemonia culturale della destra che tenta di avere, non riuscirà a ottenerlo. Nessuno può diventare una persona di talento, di qualità o di intelligenza andando dietro a dei partiti per avere delle posizioni. Nessun intellettuale può dire: non mi fate parlare, chiedo al governo di farmi parlare, perché questa cosa qua non ha nessun valore. Uno o ha e avere una forza non è per forza pubblica, è proprio una forza interiore di pensare, dire ed essere qualcosa, oppure non è niente, non c'è nessuno che lo porterà ad avere. Cioè, questi facciamo che dureranno 20 anni questi qua e faranno il tentativo di egemonia culturale di 20 anni, occuperanno dei posti, non creeranno delle intelligenze. Posti che hanno comunque già occupato da anni, sì, no? Sì, sì. Pensando alla Rai, alcuni di questi personaggi hanno occupato i posti già da parecchi anni, quindi no, anche la narrazione che viene fatta da destra, no? Degli underdog, di quelli che non avevano mai governato, fa ridere, perché questa gente che governa già da 20-25 anni e che sta, per esempio, Monica ce la può confermare, in Rai da almeno 20-25 anni e c'ha dei ruoli non marginali, c'ha dei ruoli significativi e importanti, tant'è che poi la produzione della Rai è quella che è a livello culturale. Però di nuovo, no, nel senso che quello che tu dici, Francesco, è tutto quanto si può discutere. Beh, è anche vero che siamo nel 2023, i partiti non hanno più da almeno 30 anni quella attrattiva che hanno avuto, no, fino agli anni 80. Si è tutto quanto cambiato e anche il mondo culturale si è adeguato a quello che è. Quindi quando serve si fa la dichiarazione X perché può portare consenso a se stessi, se non serve si sta muti di fronte, no, a quella che è la barbarie che è in atto, perché è una barbarie in atto, al di là di quello che si può pensare, no? E noi non vorremmo qua stasera stare a ricompattare il mondo della sinistra, perché è facile che su 9 argomenti su 10 ci prenderemmo a pizze, però nel senso che c'è comunque un discorso da fare, c'è un punto in cui bisogna, non dico schierarsi, no, e fare massa e fare gruppo, però c'è un prendere posizione, c'è una narrazione che va in un modo e c'è una narrazione che va in un altro, c'è chi è rappresentato e che c'è chi non è rappresentato. Faccio un esempio e poi lascio la parola. Nella produzione culturale a livello televisivo o anche narrativo viene molto raccontato e bene, no, quello che è il mondo della borghesia con tutte le sue difficoltà e tutte. Però c'è solo quello, e che non è sbagliato che ci sia quello, il problema è che c'è solo quello, non c'è nient'altro dopo, no? Quando abbiamo come tabula rasa parlato con loro che hanno organizzato il festival, no, della cultura working class, la GKN a Firenze, ci interessava, no, il perché tutto uno spaccato, che è importante di questo mondo, non dico che è la massa, però è una parte fondamentale, no? Quella che, dei lavoratori, delle lavoratrici precarie, di chi come noi, escluso alcuni qua dentro, fa dei lavori di merda e sarabatta, è poco rappresentato, al di là delle ideologie, no? Da destra, di sinistra, quello che ti pare, però è poco rappresentato, non vengono raccontate le storie di chi sta con la bicicletta 12 ore al giorno a portare i panini in giro in giro. Tempo fa ho visto, c'era un film sulla Rai, e qui, qui chiudo e lascio la parola ad altre persone, era un film tipo mezzo giallo, il protagonista era un rider a New York, un film che poi ho visto a Valera tipo di 10 o 12 anni fa, e che mi diceva, no, tutto questo lo facciamo per tipo 12 euro l'ora. Che io pensavo 12 euro l'ora, ma chi te manda, no? Nel senso che se qualsiasi rider di questa voce, cioè, che lavora nel nostro paese a 12 euro l'ora, ti direbbe, beh, dove si firma? Cioè, eccomi, sto qua, no? Nel senso, e quindi no, però quello era un film che non andava a raccontare, no, il lavoro del rider, anzi, se vogliamo lo romanzava e quant'altro, però a me quella, nell'introduzione del film, quella battuta mi ha fatto un sacco ridere, ho detto, a me, cioè, nel senso, vediamo questo film, pure vedi, negli Stati Uniti stavano 15 anni avanti, stanno 15 anni avanti, per alcune cose lo penso pure, però c'è un discorso di rappresentanza, ossia viene rappresentato soltanto uno spaccato di questo mondo, perché tutto quell'altro mondo non viene non viene rappresentato? E questo ricominciamo col giro e lo chiedo a Giorgia. Grazie. Ma c'erano due cose che avete detto che mi hanno sollecitato. Una, quello che dicevi tu, Francesco, sulla il valore delle opere da tenere separato dalla questione della forza e ideologia, no? Vero? Il valore delle opere però è da separare anche dalla questione dell'egemonia, cioè non c'entra niente, nel senso che quando parliamo di egemonia culturale non è questione quanto valore abbiano le opere che intendono fare egemonia, infatti noi potremmo avere una produzione di monnezza, diciamo, no, di destra, finanziata con i nostri soldi, con i soldi delle nostre tasse, e che serve, diciamo, a costruire un immaginario, nonostante siano poi delle produzioni di livello spaventoso. Dall'altra parte, la questione del valore delle opere, però, quello che ci fa guardare agli anni 50 e dire, santo Dio, come hanno fatto a produrre tutta questa roba in quegli anni, questi registi strepitosi, diciamo che... quello però invece secondo me c'entra col fatto non dell'ideologia, ma di avere un collegamento forte, uno sguardo rivolto fuori, cioè una forte ancoramento a una dimensione pubblica, una dimensione di interesse collettivo, anche quando è una storia d'amore quella che si racconta, cioè non è questione del tema che, no, che poi... costituisce la trama di un film o di un romanzo, ma il fatto che fuori c'è qualcosa, c'è qualcosa oltre l'io, no? C'è qualcosa oltre l'io e il tu, c'è qualcosa che chiama l'intellettuale comunque a stare dentro un discorso, no? Più ampio di sé, più grande di sé, e quindi l'impegno alla fine, no? Quello che chiamiamo impegno, che non vuol dire necessariamente l'assunzione, diciamo, rigida di una cornice ideologica del proprio lavoro, significa però il senso che il proprio lavoro ha una dimensione più grande di sé. Questo secondo me è quello di cui stiamo discutendo stasera, no? Che quello è un pochino... forse è andato smarrito, e che mi porta anche un po' al discorso che faceva Michele Rec, cioè il problema dello scollamento della cultura, diciamo, dalla vita quotidiana, che poi è il tema della tua ultima serie, è molto interessante, proprio secondo me è bellissima l'ultima serie di Zero Calcare, perché ha questa volontà, proprio un desiderio di calarsi dentro le contraddizioni, insomma, di questo tempo, no? Dentro cui appunto la presunzione di essere buoni è continuamente sfidata poi dalla realtà, no? Da una vita che è più complicata di così, in cui non basta avere delle buone idee, non basta essere, diciamo, puri nelle proprie posizioni, nelle proprie visioni. E il fatto che un intellettuale che firma un appello possa persino fare del male a quell'appello, nel senso di renderlo poi un così, come dire, un posizionamento elitario di chi non ha niente da perdere perché tanto siamo tutti col culo al caldo, eccetera. Questo è stato poi un svilimento del ruolo dell'intellettuale, uno suo diciamo un po' schiacciamento sull'elite sostanzialmente, no? Cioè l'identificazione dell'intellettuale con l'elite, la ZTL, eccetera, eccetera, che è stata però gran parte responsabilità degli stessi intellettuali, che non hanno voluto raccontare, questo torna anche al discorso tuo, quanto in verità questo nostro fare cultura sia un bagno di sangue anche per il precariato del lavoro intellettuale, la storica annuisce, ecco, ed è vero nella cultura, diciamo, di chi, di vero chi lavora alla RAI, è vero per chi lavora nel mondo dell'editoria, è vero per chi lavora all'università come me, cioè sono dei mondi dentro cui abbiamo buttato il sangue e quindi in realtà siamo molto più vicini, diciamo, al popolo di quanto non siamo disponibili forse a raccontare e a far vedere, a far riconoscere, no? E quindi in realtà poi, come dire, la presunzione che da lì si cioè quella sorta di boria dell'intellettuale è in gran parte una costruzione, forse anche autodifensiva, di un bel ruolo, eccetera, ma è diciamo, non risponde neanche poi di fondo alla realtà del lavoro intellettuale oggi. Cioè parte del discredito sul lavoro intellettuale è legato al fatto che ha perso le condizioni materiali di sopravvivenza, no? E su questo poi non voglio dire che non sia stato raccontato, sono nati milioni di collettivi, cioè c'è stato un grande sforzo anche, come dire, dei 30-40 anni di raccontarsi, però è stato tuttavia un percorso che mentre gli intellettuali si allontanavano in qualche modo apparentemente dalla vita vera, in verità erano calati fino al collo dentro le complessità di questo tempo, il precariato, eccetera, e non l'hanno forse fatto capire a sufficienza, insomma. Io volevo mettere in mezzo di nuovo Monica, perché lavorando in RAI fa parte, no, di quel mondo invece che ha riscritto anche il linguaggio di questo paese. Quando si parla che Berlusconi ha l'egemonia di Berlusconi negli ultimi 30 anni ha segnato questo paese, l'ha segnato in tutti i campi, ha anche trasformato la RAI stessa, no? Quello che ha fatto, secondo me, il grosso successo di Berlusconi è proprio la riscrittura del linguaggio. Intanto volevo pure io rifarmi a quello che ha detto Michele, perché mi ha molto colpita ed è effettivamente, prima di rispondere, perché effettivamente per dare anche continuità al nostro dibattito, cioè l'autopercezione di Michele è esattamente poi l'argomentazione utilizzata in gran parte da tutto il fronte populista e di destra per denigrare gli intellettuali di sinistra e appunto relegarli dentro alla visione dell'elite, staccandoli in qualche modo dalla vita reale, dalla vita vera, come diceva Giorgia Serughetti, per grande responsabilità. Io sono perfettamente d'accordo, perché appunto l'esempio che facevamo prima è chiaro che la sinistra istituzionale si è appunto arroccata nella difesa di alcune cose, non ha saputo più parlare ai problemi reali delle persone, tanto che oggi non so se ci è chiaro, ma la Francia paralizza il paese su una questione di sopravvivenza materiale e noi gli unici spazi pubblici che occupiamo sono quelli legati alla difesa dei diritti. Dopodiché l'altra suggestione che mi è arrivata da te, cioè sul fatto che poi tra l'altro parliamo sempre tra noi, ci facciamo i nostri dibattiti, siamo in questi posti confortevoli e che io, come dire, amo, perché comunque sono il momento in cui ci si confronta, si cresce anche in qualche modo arrivano le idee delle altre e degli altri e questo insomma ci dà poi degli strumenti per affrontare pure la vita di tutti i giorni e la durezza della vita di tutti i giorni, però cioè, diciamo che pure noi poi formiamo le camere dell'eco, cioè quelle che si formano con Facebook, dove tutti sono d'accordo tra di loro, che sono in qualche modo anche i luoghi della costruzione dell'odio. Noi non costruiamo l'odio, costruiamo diciamo magari un modo di pensare più amorevole, ma sempre tra di noi comunichiamo e quindi dobbiamo riuscire in qualche modo a, io sono d'accordo, a sporcarci le mani. A Cutro, dove diciamo si è avuto l'ultima conferenza stampa, questa cosa la voglio dire, l'ultima vera conferenza stampa in cui i giornalisti e le giornaliste hanno avuto modo di fare delle domande, il governo ne è uscito talmente malmesso che da quel momento in poi conferenze stampa vere e proprie non ne sono state più fatte. Insomma, andiamo avanti con dei piccoli video propagandistici dove non c'è la possibilità quasi mai veramente di rado per le giornaliste e i giornalisti di fare domande, per esempio, no? E quindi mettere in discussione anche quelli, anche quella è una modalità che impedisce poi la costruzione di un discorso pubblico differente, cioè anche la chiusura degli spazi, non è soltanto l'appropriazione, anche la chiusura, anche mettere, io adesso non so se alla manifestazione del Pride c'erano 1 milione di persone, ma era sicuramente una roba mastodontica, infilare quella notizia lì all'interno di un titolo pastone sesto insieme alle argomentazioni sul centro-sinistra, significa togliere visibilità, significa come dire erodere dalle radici la possibilità per alcuni discorsi e per alcuni movimenti di diventare in qualche modo egemoni. No, io volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto a questa differenza fra l'impegno civile e l'opera, diciamo così, no? Appunto, la natalità è impegno, cioè occuparsi di GPA è un impegno civile e l'opera è un'altra cosa, certo, ovviamente. Oltre appunto alla redazione di Tabula Rasa, nel tempo libero dirigo una casa editrice e io rifletto ogni giorno, diciamo così, no? Su la scelta e la selezione, diciamo, dei libri da portare. Perché? Perché mi sento una responsabilità poi nella pratica, no? Una responsabilità verso le lettrici, i lettori e verso, diciamo, quel fuori di cui parlava Giorgia. Quindi quello che io mi chiedo ogni giorno è com'è possibile che questa responsabilità non sia anche condivisa da chi queste opere d'ingegno le crea e le porta fuori. E va bene, siamo tutti d'accordo che la libertà d'espressione deve essere indipendente e non ci deve essere nessun tipo di ingerenza, ma in un mondo come questo, che sta andando, diciamo, dall'altra parte in tutti i sensi, dove appunto abbiamo stragi in mare ogni giorno, persone che fondamentalmente non arrivano alla fine del mese e non riescono a far sì che le loro vite siano non soltanto rappresentate ma anche in qualche modo degnamente vissute, cioè com'è possibile che chi crea cultura in questo paese non sente la responsabilità di raccontare questa roba qui e soprattutto anche di renderla accessibile a sempre più persone in modo che forse non è egemonia, sicuramente non è egemonia, ma quantomeno una possibilità di crescita e di cambiamento diciamo delle generazioni future. Noi ce la dobbiamo chiedere sta cosa prima o poi. Io non parlerei solo di responsabilità ma anche di curiosità. Perché poi, no, nel senso, neanche la curiosità di andare a raccontare questo mondo, io non la metterei sulla responsabilità, che c'ha senso, io la metterei anche sulla responsabilità, ma anche solo sulla curiosità di raccontare il mondo, no, nel senso, sia Visconti che Fellini non venivano dalle periferie dell'impero, assolutamente, no, facevano parte, venivano, no, da un'estrazione super borghese, e questo per mille motivi, e via dicendo, però avevano quella curiosità di capire chi c'era al di là di loro, al di là del loro ambiente, chi erano gli esclusi, gli ultimi. E questo secondo me invece da anni a questa parte viene un po' meno. Poi questa è la percezione mia. Sì, più che altro discuterei la neutralità di questa cosa qua. Questa cosa qua non è neutra, cioè sottrarsi a questa responsabilità non è neutro, è già una presa di posizione per me, tutto qua. Posso dire che sono molto d'accordo, nel senso che io non penso soprattutto poi che le debbano fare tutti, nel senso che penso che se te legittimamente non te ne frega un cazzo di quella roba, è corretto che tu non lo faccia. Quando ti poni come il pilastro morale di questo paese e ti metti a dare lezioni a tutti, però mi aspetto che questa curiosità o questa responsabilità tu ce l'abbia in qualche modo. E quindi questo, cioè, tra l'altro mi convinceva, tu gli avevi chiesto a lei perché c'è anche questa questione della rappresentanza che manca, eccetera. Da una parte spesso chi c'ha, secondo me, gli strumenti per raccontare delle cose, gli strumenti narrativi, gli spazi, eccetera, non racconta quella roba perché tante volte non la conosce, e chi quella roba la vive spesso non ha gli strumenti per raccontarla. Quindi già è raro che si, che nello stesso individuo o nella stessa struttura si sovrappongano il fatto di avere interesse e voglia di raccontare quelle cose e gli strumenti per farlo. E poi c'era quello che diceva Sorghetti prima, è molto vero, anche chi lavora in posizioni magari non apicali di questo mondo, quindi persone che sono tutt'altro che privilegiate, comunque si rappresentano in... Boh, quello che era? Non era essenziale, non era essenziale per noi, ma forse... No. Però si racconta se stesso in una maniera... Io penso che sul Salone del Libro di Torino è il posto in cui questa roba si vede tantissimo, cioè persone che vanno in giro dicendo, che fanno le storie su Instagram dicendo ah, sono ospite del Salone del Libro di Torino, oppure che si raccontano a volte anche come giornalisti, eccetera, poi scopri che quello che è ospite è in realtà è uno che si è dovuto pagare il treno, l'alloggio, dormendo in cinque là dentro, perdendo un botto di soldi, ma perché quel momento di autoproduzione in cui si racconta come l'autore affermato in qualche modo gli vale di più, perché per affermarsi in questo mondo devi dare di te l'immagine di una persona che fa parte di quella cricca lì. E lo stesso vale per giornalisti che a volte in realtà stanno per una micro testata che non gli paga niente, in cui si pagano loro stessi l'accredito, la cosa, eccetera, ma devono rappresentarsi in quel modo là. E questo però penso che è una grande sconfitta culturale, nel senso che se tu hai bisogno di, cioè non c'hai neanche la capacità, vorrei dire l'orgoglio anche di raccontare le lotte che fai per campare in questo mondo, ma preferisci raccontarti come un privilegiato, perché evidentemente nel mondo adesso intorno a te è percepito meglio il privilegiato di quello che arranca, è una sconfitta di tutti, penso. Ma puoi dire, che tanto l'applaudono tutti, non c'è gusto. Non funziona così, no? Va applaudito che invece non ha applaudito, no? Non c'ha più senso, ma più. Però no, a parte che io sono spesso d'accordo con quello che dice, ma perché condividiamo a volte dei pensieri, però è vero che c'è un problema della rappresentanza, dell'identità, cioè al di là che l'identità poi spesso e volentieri, come abbiamo raccontato, come lo racconti anche tu nel tuo libro, è una mezza, cioè risolve a metà tutta una serie di cose, perché appunto l'identità funziona fino a un certo punto, la rappresentanza di quello che siamo, che non siamo, invece continua a essere determinante, no? Nel senso che se ci fate caso, in qualsiasi produzione il discorso di classe viene meno, eppure il discorso di classe è permeante, no? Abbiamo è stato seppellito l'altro giorno, non mi ricordo quando è stato finito, non accendo la TV da giorni, proprio per questo motivo, perché è stato seppellito uno dei fautori della lotta di classe vincente, no? Berlusconi ha azzerato tutto, nel senso che la sua classe, no? Tutta una serie di personaggi l'ha rappresentata e hanno vinto fino in fondo. Perché mancano i discorsi di classe al di là, no? Che spesso e volentieri vengono esautorati, perché automaticamente se parli di classe sei un marxista, e quando invece semplicemente stai rappresentando quello che c'hai intorno a te. Lo chiedo a Sorghetti e a Giorgia. Perché è sparito, appunto, no, è vero, no, tra l'altro l'ha detto Warren Buffett, non noi, cioè un miliardario, che la lotta di classe esiste e l'hanno vinta loro, no? Cioè, diciamo, l'abbiamo vinta noi, dice, e quindi ha riabilitato, diciamo, la parola classe, che era completamente sparita insieme alla parola capitalismo, no? Quindi in questo appunto, Coltre, che dicevo prima, che è stata ideologica, profondamente ideologica, che è riuscita a costruire una realtà sulla realtà, no? Sul reale, se vogliamo, una realtà sopra il reale, quel realismo che dicevamo prima, e lì in realtà è stato completamente soffocato il discorso proprio, cioè la forza di quanto il capitalismo ha continuato e continua, no, a permeare nelle nostre vite, riuscendo a rimuoverlo come parola, come rappresentazione, così è anche riuscito a indebolire di molto il discorso antagonista rispetto e la possibilità stessa di pensare un dopo, un oltre, un diverso, un altro, un altrove, un'utopia, insomma un fuori dal capitalismo, no? È diventato completamente impensabile. E invece no, per tornare al tema di questa sera, invece le narrazioni sono fondamentali. Veramente fa un po' specie quello che tu raccontavi, cioè il Festival della Letteratura Working Class è fichissimo, però l'idea che la letteratura working class abbia un suo festival dice tutto, no? Rispetto al fatto che quella letteratura non è dentro il mainstream, non riesce ad accedere appunto a quei luoghi della cultura invece che si riconosce come alta cultura, come capace di fare cultura, eccetera. E invece quelle rappresentazioni, quando bucano, sfondano, cioè a me, io non so, ai studenti mi capita di far vedere Ken Loach, no? Per dire, ma perché io sono convinta che far vedere alcuni suoi film racconti il lavoro oggi, cioè molto più che saggi, diciamo, di teoria critica, come quelli che anche io scrivo, diciamo. Perché te lo racconta, perché te lo fa vedere, perché tutti conosciamo qualcuno che consegna pacchi per Amazon o altri, però quella durezza di tutto questo vista su un grande schermo o comunque con la capacità narrativa di un grande artista è un'altra cosa, no? E allora però torniamo al punto, non dico che però tutti oggi debbano occuparsi solo di migranti in mare o di lavoro, o di precariato, eccetera, si possono raccontare le storie che si vuole, no? Cioè, non è quello esattamente il punto, e non significa neanche aderire a una certa visione del mondo per essere convincenti nella propria narrazione, significa davvero pensare però che c'è qualcosa oltre quel tuo piccolo io, quel tuo piccolo noi, eccetera, e quel qualcosa oltre un po' lo devi conoscere, ha ragione Michele, cioè c'è un problema proprio anche di non così contaminazione tra mondi, quella che è stata chiamata la secessione delle élite, è una cosa vera, cioè ci sono e purtroppo le élite sono anche più grandi che non quelli del super miliardari che vivono in mondi altri, eccetera, cioè lo scollamento completo tra mondi, e quindi se non lo conosci effettivamente è più difficile narrarlo, oppure lo narri come veramente l'antropologo di una volta, no, che andava nella tribù a vedere come funziona, come si vive a Ribini, appunto, no? E queste cose qua alla fine sono patetiche, cioè non è quello di cui stiamo parlando. E allora lì però, e chiudo sui partiti, i partiti erano appunto un grande un luogo di socializzazione politica dentro cui anche vite diverse, diciamo, si incontravano, anche classi, estrazioni di classe diverse. E questi luoghi non esistono più. E quindi effettivamente il fatto che allora appunto una cultura impegnata, diciamo così, trovasse un suo viatico più naturale era anche legato al fatto che c'erano dei luoghi dentro cui l'incontro tra realtà, appunto tra i bassi fondi del neorealismo e, diciamo, e chi aveva gli strumenti per raccontarlo, cioè era un incontro possibile. Oggi questo incontro sembra davvero sempre meno possibile, mi pare. Quanto è possibile questo incontro, Miriam? Tolgo da te perché fa parte di quel mondo, mo può fare tutto lo schifo che ti pare, ma ci sei dentro con tutte le scarpe, anche se porti i plantari, però questo è un altro discorso ancora. Non li porto più, mi hanno operato per i piedi piatti. Comunque, in realtà io penso esattamente questo, nel senso che lo facevano i partiti, e nel mondo da cui vengo io e in cui siamo oggi, penso che l'hanno fatto egregiamente i centri sociali e gli spazi occupati. Sono in generale tutti i posti di incontro fisici in cui le persone devono mediare con qualcuno che è altro da sé, e quindi con altre estrazioni, con altre culture, eccetera, in cui devono parlare, conoscersi, confrontarsi e poi mettersi insieme in vista di una vertenza, di un qualcosa, eccetera. Penso che sono tutti degli spazi di contaminazione che servono a questa roba qua. Nel senso, penso che è questa che è stata la grande ricchezza di questi spazi negli anni 90, cioè il fatto di avere prodotto delle culture che possono essere state il punk, l'hip hop, cioè movimenti artistici, autoracconto delle generazioni che si sono incontrate in questi spazi. Secondo me è esattamente questa direzione qua. Non avremmo fatto il neorealismo, ora abbiamo fatto delle cose che hanno coinvolto comunque centinaia di migliaia di ragazzini in giro per l'Italia. Adesso questa cosa sicuramente si è un po' persa. Ci sono delle domande da parte vostra o delle riflessioni da parte vostra, qualcosa da chiedere a qualsiasi, diciamo, membro di questo variegato tavolo? Siamo qui che vi attendiamo, non abbiate paura. No, vabbè, c'è una considerazione che volevo fare, forse la domanda si allaccia soprattutto a Zero Calcare e anche alla giornalista che appunto lavori nell'ambito della RAI, è che lungo tutto questo discorso, secondo me, narrativamente il problema è che è difficile, diciamo, avere delle ideologie, per esempio all'interno di un festival come quello di Venezia, perché comunque il cinema, purtroppo, che si voglia o meno, non si può più parlare di settima arte, ma di, cioè, è un'industria cinematografica, quindi la parola capitalismo, secondo me, è giusto da... È un'industria cinematografica, quindi questo vuol dire che per acquisire, diciamo... Vuol dire che i prodotti che noi scriviamo devono essere appunto prodotti, servono dei finanziamenti, e i finanziamenti per ottenerli significa che a livello ministeriale bisogna, come dire, rispondere a un gusto, al mercato, a quello che funziona, eccetera. Quindi c'è un problema alla base proprio per quanto riguarda questa cosa anche degli strumenti, perché io che voglio fare la regista, voglio fare la sceneggiatrice, se voglio parlare di determinati argomenti non è così facile farlo, perché mi cassano proprio agli inizi, no? Perché devo accedere a tutta una serie di iter produttivo che vuole che si risponda in qualche modo a un mercato che c'è e che quindi sia in qualche modo consolatorio, per cui non si può creare in qualche modo, che crea sempre consenso. Tu per esempio facevi l'esempio del giornale, che tu lo apri e risponde sempre a quello che tu già vuoi, perché già nelle scuole, per esempio, anche di scrittura, se uno la fa o non la fa, ti insegnano a scrivere seguendo un modello, seguendo quello che funziona. E quindi c'è un problema che secondo me è quello del mercato cinematografico. E poi, e quindi avere la libertà in qualche modo, scusate, è lunghissimo, sono agitatissima, avere il, come dire, prendersi la libertà di parlare di certi argomenti significa rientrare in una nicchia più piccola, che per esempio è il cinema indipendente. Il cinema indipendente, purtroppo la contraddizione è che diventa un cinema elitario e che quindi in qualche modo non arriva necessariamente al grande pubblico, ok? E poi infatti parlare di alcune cose è una libertà che ti prende col tempo, cioè se Zero Calcare adesso può fare una serie di un certo tipo, è una libertà che è arrivata piano piano. Questo è il problema secondo me adesso. E poi c'è il discorso individuale, secondo me, è che anche il cinema è un luogo molto competitivo, l'ambiente cinematografico, che crea, come dire, figure molto individualiste, cioè siamo uguali ai broadcaster veramente, per cui spesso è difficile dire scrivo questa cosa e me ne fotto del fatto che nessuno me la... Cioè è molto più facile dire voglio lavorare, voglio avere una scalata, perché se no muoio di fame, e quindi rispondo a quello che i bandi ministeriali, a tutto l'iter del cazzo produttivo mi richiedono. Quindi c'è questa grande contraddizione, questo per dire che è un casino, cioè che quindi non è così facile. E io non so come fare, quindi questa è la mia domanda, forse. Allora, lascio il microfono a questa domanda, devo rispondere sia Francesco che Michele. Bravissima. Posso far dire l'unico appunto che volevo fare, che forse negli anni 60 era più industria il cinema in Italia che quanto non lo sia destra, adesso, perché c'era lapsus, perché c'era una produzione a livello di film totalmente diversa da quella che c'è adesso, forse il doppio, il triplo, il quadruplo, però questa è la risposta che devono dare gli addetti ai lavori. Ma io non so che risposta da voi mi volete far parlare, ma io capisco benissimo cosa dice, tra parentesi, appunto, io faccio parte di questo mondo, ci sto, forse sono totalmente aderente ai programmi ministeriali, mi chiedo, cioè rispondo istintivamente ai programmi ministeriali, ed è possibile, devo dire, non me lo chiedo, e forse è meglio se non me lo chiedo, visto che potrebbe essere così, però ovviamente potrei dire banalmente che l'unica strada che c'è è quella di cercare di raccontare quello che si può raccontare, però è vero anche che quando tu dici che bisogna seguire quello che ti viene chiesto, io credo anche che dalla soap opera di Un posto al sole, dove hanno immesso come dire, questioni di diritti negli anni, a gente che ai più grandi registi del mondo che hanno fatto dei film per farne un altro, e invece quel film fatto per farne un altro era un capolavoro e quell'altro che volevano fare assolutamente no, probabilmente lì dentro c'è la possibilità, anche nei programmi ministeriali c'è la possibilità di raccontare qualcosa. Questa è una cosa a cui non bisogna sottrarsi, perché secondo me anche il ragionamento opposto, cioè dire io voglio fare tutto quello che dico io e non me lo fanno fare, secondo me in un mondo che è un'arte, per parlare del cinema, visto che stiamo parlando del cinema, che è un'arte collettiva, che è un'arte che non è totalmente individuale come un libro, dove io è un'arte fatta in questo modo. Io se vado in una casa editrice, anche se non scrivo libri di Chelloccio come chiede Tiziana, ma non li scrivo, perché se li scrivessi io farebbero cagare, meglio che li fa Chelloccio, questo poi è la vera risposta. Ma se io scrivo un libro e dico il protagonista è un macellaio, in una casa editrice mi dicono bene, vediamo questo libro del macellaio com'è. Se tu vai al cinema e dici questo mio film è su un macellaio, dicono ma perché un macellaio e non un dentista? Ecco, se uno vive in un mondo che è anche economico, non c'è niente da fare, in cui si mette in discussione tutto, non deve irrigidirsi, ma deve mettere in discussione tutto, cercando di fare quanto più possibile quello che vuole fare. Questo è probabilmente un atteggiamento in sintonia con i programmi ministeriali, però io ci credo. Ha detto una cosa, ma non mi ricordo perché io sto bellino, però ha detto una cosa che ero molto d'accordo all'inizio, che qual è la prima cosa che hai detto all'inizio? Ne posso scegliere una io di quelle che ho detto e tu dici che sei d'accordo, perché non me la ricordo manco io. No, non era questa, spero che non sia questa. No, spero per te. Vabbè, comunque no, perché ha detto una cosa, ho pensato, ecco, questa è una cosa molto vera, però non me la ricordo. E l'altra cosa, se chiedi a me, io vado avanti per piani quinquennali, cioè io lo sapevo che non potevo fare tipo questa serie come prima serie, che prima dovevo fare quella più di Buoni Sentimenti, eccetera, e quindi ho fatto così. La stessa cosa ho fatto quando dovevo fare la roba sui curdi, è arrivato dopo un percorso in cui prima ho fatto delle cose che erano diverse, eccetera, e penso che queste sono delle cose che uno si conquista man mano, se c'ha le idee chiare su dove vuole arrivare, tendenzialmente. Mo però No, no, non è somigliato, è che lo so, è che veramente non avrebbero fatta questa cosa qua, come non avrebbe, se avessi fatto Cobane Calling come primo libro, non se lo sarebbe comprato nessuno, perché non se lo sarebbero comprate le persone che poi si leggevano la roba perché saranno letto il blog, saranno affezionate, seguivano quel linguaggio, eccetera. Però quello sta, immagino, a averci, ah no, ecco una cosa che all'interno delle cose, anche come Un posto al sole, in realtà si possono portare un sacco di contenuti. Io il fumetto più politico, più radicale che ho letto negli ultimi decenni non è un fumetto indipendente, è Daredevil della Marvel, che sta uscendo in questo periodo in edicola e che c'ha un discorso sul carcere, sulle classi, eccetera, che è una roba che è impensabile, e lo fa la Marvel, che è stata comprata dalla Disney. Quindi, insomma, penso che in realtà all'interno di ogni Chip Zdarsky, è disegnato da Checchetto, non lo chiamano, me li mando, ti presto, e quindi niente, questo. Vai, chi era la seconda? Ci sono più domande, quindi avvicinatevi, fate voi, cioè non se mettiamo qua a fare la selezione, fate voi, avvicinate e chiedete. Allora, ricollegandomi a questa cosa qua, cioè che io ho compreso dopo un po', cercando di capire come funziona il mondo, che uno prima, diciamo, riesce ad avere successo magari provando a non schierarsi troppo, e poi può dare il suo messaggio, no, in modo, no, io... Grande Michele, grande, questa è la sintesi del pensiero calcare. Non mescherate, fate successo e mescherate. No, complimenti, però, number 5, vai. Non è una necessità, cioè nel senso il fatto è che nel mondo in cui siamo adesso è molto difficile sfondare se si è, diciamo, apertamente schierati, e perché si viene, diciamo, accusati di fare propaganda e tutte queste cose qua, che poi, visto che in Italia soprattutto ci sta una censura molto della sinistra, alla fine uno è proprio limitato nell'esposizione e quindi non riesce a fare la roba. E quindi nell'ultima serie però di Zero Calcare, che appunto, diciamo, cerca di far vedere questa cosa qua, cioè tu hai, diciamo, in un episodio un dubbio in cui dici, io mo non so se alla trasmissione in cui vado posso dire questa cosa, perché poi capita un casino, non mi pubblicano, cioè no, ci sta questa questione qua, che non potevi parlare del centro d'accoglienza perché poi il produttore ti aveva detto che non si faceva la serie, tutte robe così, cioè secondo me, e nella posizione in cui sei te, cioè non sto cercando di fare polemica, però è solo una mia questione che mi era venuta vedendo la serie, perché non ti senti te adesso che sei arrivato a questo punto qua, in cui comunque, anche se non Bao, comunque qualche produttore lo troveresti comunque, perché ti sei sentito limitato, diciamo, in una trasmissione che magari appunto non è una trasmissione politica, ma a mandare un messaggio in modo libero, in diretta, anche se i tuoi produttori paradossalmente, insomma, ti consigliavano di non farlo? Era una cosa di finzione, credo che i presenti possano darmi atto che io mi sono difeso qualsiasi efferatezza insensata fatto in questo paese, chiedendo la liberazione di qualsiasi mostro che ha bruciato macchine dei poveracci in qualsiasi modo. Quindi veramente penso che non credo di avere negato una parola di conforto a qualsiasi mostro in questo paese che fosse coperto vagamente da un'ideologia simile alla nostra. Quindi, insomma, però me lo so chiesto, nel senso che è chiaro che me lo so domandato. Per farti un esempio stupidissimo, quando c'erano le questioni quando c'era il lockdown e ci furono degli scontri a Torino dei pischelli che sfasciarono, che spaccarono le vetrine dei Gucci per rubarsi la roba, io fui intervistato dalla stampa che mi chiese di dire la mia su quello che stava succedendo, perché lì c'era le manifestazioni, no, per chiedere sostanzialmente reddito, cioè i soldi a chi stava a casa e non poteva lavorare, cose del genere. E quell'intervista in realtà doveva partire con la condanna di quelle vetrine sfondate. E quando io dissi, guarda, io però non voglio condannare questa roba, non sono né un giudice né una guardia, e ho detto, vabbè, però non possiamo pubblicare, stai in prima pagina, è una roba dell'editoriale, non possiamo pubblicarti sulla stampa se tu non parti con questa cosa qua. E questa roba ha creato un grosso cortocircuito, nel senso che la giornalista che mi ha intervistato con le migliori intenzioni, convinta, anche contenta di aver ottenuto l'intervista di Zero Calcare su questo tema al suo direttore, si trovava di fronte e mi diceva: ma sei sicuro? Guarda che io non lo posso cambiare se tu lo dici. Poi eccetera, ho fatto: guarda, sì, sono sicuro. E in realtà se la sono inculata sostanzialmente, perché gli hanno detto: guarda, cioè, noi non possiamo fare questa roba, però non possiamo manco censurare se lui questa cosa l'ha detta, eccetera. Boh, io di questa roba ero abbastanza convinto, diciamo, dentro al cartone l'ho romanzata come, però non è che io non c'avevo quel dubbio, perché non è che poi io non c'ho il dubbio di, ma a me me va domani di averci un miliardo di polemiche, un miliardo di persone che mi cagano il cazzo, qualcuno che poi, cioè, ovviamente non è una roba che io non sono uno che si diverte a provocare, quindi non mi diverte stare al centro dell'attenzione con 8000 tweet di persone che mi rompono il cazzo. Quindi diciamo che dentro al cartone questa cosa era un po' romanzata per motivi finzionali, però mi sono trovato tante volte a chiedermi se è una roba che non si poteva dire, ma collavo di dirmelo no. Poi appunto penso che tra tutte le cose che mi possono dire è che non c'è quella di non avere difeso qualsiasi nefandezza fatta dai miei compagni, ecco. Ok, più uno spunto di conversazione, cioè nel senso, perché dal discorso mi è passo che un po' il problema adesso nella comunicazione sia un po' il parlare delle contraddizioni che ci sono adesso nel modo di fare arte. Cioè, più prima è stato citato Ken Loach, c'era un periodo in cui Sorry We Missed You, l'unico modo per vederlo era su Amazon Prime. Cioè, nel senso, quindi secondo me è un po' il distacco... Ken Loach? Sì. Sì. Ah, ok. No, quindi, cioè, secondo me adesso c'è un po' il problema di riuscire a parlare di queste contraddizioni, e nel momento in cui non ci si mette in discussione ci si allontana dal pubblico, perché si perde potenza nel proprio messaggio. Cioè, nel senso, il messaggio può essere quanto sulla lotta di classe e su quanto si sta male in quest'epoca possibile, però comunque se non ci si mette anche in discussione, secondo me in quel momento non si ha. Poi anche sono molto d'accordo su quello che è stato detto prima, sul fatto che non si riesce a immaginare, nel senso, un futuro diverso da appunto quello adesso. Cioè, nel senso, secondo me questo dovrebbe essere anche uno dei compiti dell'arte in qualche modo, riuscire a creare una realtà, cioè a mostrare un altro tipo di realtà possibile. E questo partendo appunto dalle contraddizioni del presente. Cioè, volevo sapere un po' anche cosa ne pensate, cosa... Io credo che intanto c'è, a volte, io adesso parlo dal punto di vista della comunicazione, da parte della destra, una maggiore facilità a mettere in moto dei meccanismi di semplificazione narrativa. Cioè, noi viviamo in una società che è estremamente complessa, sempre più complessa, dove anche i movimenti per uscire fuori dall'idea dell'identità hanno messo in discussione le identità che erano, come dire, rassicuranti, no? Io sono femminista, mi identifico con la mia identità di femminista e mi sento messa in discussione quando arriva la persona trans che mette in discussione il fatto che, come dire, la parola femminista possa essere utilizzata anche da chi non è nata donna. Adesso per portare un tema, no? Un tema che attraversa spesso i movimenti. Tutto questo porta, secondo me, anche noi ad attraversare continuamente i diversi piani, no? Quella che adesso viene chiamata l'intersezione, abbiamo qualcuna... l'ha già nominata prima, cioè il fatto che i piani, come dire, anche di lotta, no, e di identificazione con una parte della società si intrecciano tra di loro, rende tutto molto complesso, rende complesse le alleanze politiche, rende complessa la capacità, la possibilità di intervenire sulla realtà. Oltretutto, diciamo, a noi spetta pure il compito di indicare un futuro, no? Cioè di dire questa roba qui non ci piace, dobbiamo andare da qualche altra parte, quindi indicare un cambiamento. Io credo che proprio a livello anche, diciamo, di psicologia collettiva, non è una roba che io mastico, ma come dire, mi viene in mente questo, no? Che è molto più semplice dire io voglio tenere questa roba qui come adesso, quindi conservare, piuttosto che dire ti porto da un'altra parte e non so esattamente bene dove ti sto portando. Per cui anche a livello, diciamo, di adesione alle cose che accadono, la destra ha una facilità di comunicazione, ha una semplificazione di narrativa che deriva pure dal fatto che conserva, cioè che cerca di, come dire, tenere ferme delle cose che già esistono, no? E a noi spetta il compito di un immaginario del futuro. Per questo poi dal punto di vista della costruzione dell'immaginario io sono perfettamente d'accordo con Michele, cioè più di una firma è molto più importante un'opera, no? Cioè è molto più importante riuscire ad arrivare dentro l'immaginario, a scardinare alcuni meccanismi, perché altrimenti non ce la facciamo. E non so se ti ho risposto, perché non come dire, però ecco, io credo, cioè io mi dico questo, no? Mi dico questo, la mia difficoltà è, vi faccio un esempio banalissimo, sempre poi vi lascio la parola, però sempre perché io faccio un lavoro dove devo mettere le mani nelle cose, no? Per esempio, se siamo noi, no, a dire che non funziona l'accoglienza nei grandi centri, ok? Ma che funziona l'accoglienza, diciamo, per cercare di offrire delle possibilità di vita alternative delle persone che arrivano nel nostro paese in luoghi piccoli, in luoghi protetti, dove si possono costruire relazioni interpersonali, eccetera. Lo diciamo noi e come dire, subiamo l'attacco, no? Un attacco fortissimo della destra. Questi vanno al potere, siccome si rendono conto che non riescono a garantire la sicurezza, tra virgolette, come la vogliono garantire loro, dentro i grandi centri, perché è tutto molto più complicato, adesso stanno mettendo in piedi un'idea, mettendosi d'accordo con gli enti locali, di microaccoglienza, quindi riappropriandosi di una roba che, quando, diciamo, la dicevamo noi, veniva completamente distrutta. Questi sono ribaltamenti di cui parlavo pure prima, che rendono molto complicato in questo momento il discorso pubblico di chi non la pensa come chi in questo momento ha l'egemonia politica e culturale. Allora, c'era un'ultima domanda, vieni Christian, dai. A me quello che mi spaventa sull'egemonia culturale è che le prime due domande sono venute da gente non di Roma, l'accento, e quindi questa cosa a me un pochettino mi perprime. Oddio, ma dove sta l'egemonia culturale di noi autoctoni? Però vabbè, vai Christian. Mentre Antonio mi provava a dire queste cose, dei dati. Allora, nel 1955, quando Mario Alicata è presidente della commissione cultura, in realtà capisce che hanno fatto una cazzata nella Costituzione, e cioè che non hanno fatto un lavoro sulla scuola, e quindi comincia a parlare con tutte le varie commissioni scuola, di chi si occupa di scuola, di studenti, eccetera eccetera, e fonda Riforma della Scuola e Il Pioniere, cioè appunto una rivista per insegnanti e una rivista per ragazzini. Il Pioniere viene affidato a Rodari, che effettivamente capisce un po' come Zero Calcare, che in fondo, mentre no, nel senso, veramente, cioè, faccio un complimento, che è un complimento di strategia politica, perché poi appunto non è semplicemente prima dico una cosa così per passare da e poi dico la cosa seria e radicale. Anche Rodari capisce che in quel contesto lì effettivamente fare una critica a regime eccetera eccetera è difficile, e quindi in realtà fa un lavoro di egemonia immenso all'interno di una rivista che è appunto una rivista per bambini, una struttura veramente simile a quella, cioè una modalità veramente simile anche alle cose che dice, a quelle che dice Michele. Cosa succede però? Questa è che la spesa sociale per scuola, ricerca e cultura nel 1971, il massimo è il 19,1%. Dopo Berlusconi siamo sempre sotto l'otto. Quindi diciamo che fare egemonia, e quindi dire, cioè, come facciamo a conquistare lettori, eccetera, eccetera. Nel 1973 i due film più visti al mondo sono due film di Bud Spencer e Terence Hill, Il Terzo e L'Esorcista. La quantità di film che si producono negli anni 70 in Italia è immensa. differenza. Mio padre lavorava qui alla Technicolor, c'erano 1200 persone a lavorare alla Technicolor, quindi è vero che c'era scuola a fare una giornata particolare, ma c'erano anche 200 operai ed era il vertice dell'industria culturale al mondo. Questo sparisce a un certo punto, negli anni 80 cambia un po', Berlusconi capisce che tutti i soldi che stanno arrivando anche alla televisione li può prendere, nel 1992 l'industria televisiva italiana anche lì è la seconda al mondo. Ora, questa cosa è sparita, e però è sparita anche dalla RAI, cioè nel senso che poi abbiamo avuto geni come Renato Parascandolo e oggi abbiamo personaggi più mediocri come Silvia Calandrelli. Allora, però la domanda che io faccio, cioè la domanda, l'intervento del compagno Raimo all'assemblea dell'intellettuale organico è, cioè, secondo me in questo momento l'unico luogo dove fare egemonia è la scuola, dove ci sono 8 milioni e 800 mila ragazzini e 800 mila insegnanti, e sulla scuola nessuno prova a fare egemonia. Cioè il lavoro che si può fare lì, perché dall'altra parte io me li sono visti tutti le 8 ore sono su Radio Radicale degli Stati Generali della Cultura, sono dei cialtroni, ma hanno capito che nel deserto generale loro, il loro lavoro è veramente fare egemonia, cioè meglio che c'hanno a Giuli, cioè per dire tutti gli altri cosa sono. E sulla scuola in questo momento stanno avvenendo delle cose che fanno egemonia, cioè del 2020 il rappresentante di Confindustria Scuola, che è un uomo di destra, di Bertagni eccetera eccetera, dice: hanno tutti questi laureati, non ci servono, e infatti sono diminuiti i laureati, ci servono persone in 4, come dire, settori: il settore del lusso, la componentistica di secondo livello, delle cose così, i camerieri e la gente che lavora un po' nel tessile. Questi sono, diciamo, i lavori pensati da Confindustria per, diciamo, la grande massa di studenti, e una piccola parte che fa materie STEM e che diciamo fa quel piccolo cosa dell'elite. Per cui secondo me c'è un posto dove si può fare egemonia culturale, e si può fare egemonia culturale, che è essenzialmente l'unico spazio, diciamo, che condividiamo tutti, perché poi appunto la settorializzazione dei mondi culturali è tale che ognuno cerca di, come dire, emergere nel proprio settore. Questo è il compagno Rai. Allora, andando a concludere, chi vuole rispondere? C'è qualcuno di voi? No, tutti sono affaivati? Siamo tutti devastati. Nessuno vuole rispondere al compagno Raimo, quello, quindi cioè, arriva, no, una ventata di freddo. No, non ha approdato. L'anno prossimo sono i 20 anni, no, i 40, i 50 anni dei decreti delegati. Decreti delegati del 74 vanno a votare. Scusate, ha approdato proprio sempre. No, perché una delle cose che si sta parlando fa molto poco radiofonica, scusa. No, scusate. Nel 1974 vengono approvati i decreti delegati. Le persone che votano per i decreti delegati, quelle che creano consigli di istituti, consigli di classe, eccetera, eccetera, sono 9 milioni. Le assemblee preparatorie dei decreti delegati sono 4 milioni e mezzo di persone. Spesso molte donne per la prima volta partecipano all'assemblea pubblica. Oggi l'idea che si possa fare politica dentro la scuola, e quindi in qualche modo partecipare a progetti, creare, eccetera, eccetera, non passa quasi mai l'idea. Però non solo dentro la scuola, secondo me, questo problema che non si può fare politica. Cioè, quello è un posto dove, come dire, i consigli di classe, i collegi docenti, eccetera, eccetera, esistono, quindi si può fare politica da genitori, da nonni, da insegnanti, da progetti, eccetera, eccetera. È un posto in cui ci si può prendere uno spazio, perché se uno si prende una scuola, la scuola c'ha 2000 ragazzini, e uno lo vede anche a Roma, il lavoro che ha fatto alla Salagone, cioè poi a un certo punto la Salagone diventa un posto in cui cambia completamente un quartiere. Quindi si può fare egemonia prendendosi le scuole piano piano, pezzo a pezzo, facendo un lavoro veramente, perché quello è il pezzo più, come dire, è l'ultimo campo di battaglia. Welfare è finita, la sanità è finita. Non è che proprio sono disertate le scuole, sono proprio occupate, come tu ben sai, diciamo, da figuri che, se tu porti alcuni contenuti, sono, cioè, come gli ti alzano barriere, quindi non è un conflitto, no? Non è soltanto un campo deserto perché non compare negli stati ridicoli della cultura, ma è anche un posto saldamente occupato, dove quindi bisogna aprire un conflitto, insomma, acceso, diciamo, avendo il desiderio di combattere questa battaglia. E qualche volta io comprendo anche che dirigenti, insegnanti, eccetera, insomma, questa voglia di combatterla da sola, questa battaglia non ce l'abbiano. Quindi diciamo l'assenza di politica, che è più grande dell'assenza di politica dentro la scuola, però sono d'accordo con te sul fatto che lì manca la politica, ma siccome manca altrove, e manca più in alto, e manca più a lato, e manca da destra e da sinistra, fa sì che quello sia un campo dentro cui comunque continua a perpetuarsi un conservatorismo abbastanza stucchevole. Cioè, e siccome appunto io come lei mi appassiono a tematiche di genere, sappiamo di cosa parliamo, no? Quando appunto il tentativo è di introdurre dei contenuti che sarebbero soltanto 50 anni fa passati per, come dire, moderatamente riformisti, no? Cioè, come dire, parliamo del fatto che siamo uguali uomini e donne, cioè, ma veramente stiamo parlando di progetti che poi tutto sommato hanno come ispirazione quelle delle pari opportunità, dell'uguaglianza di genere, eccetera, e vengono frontalmente avversati, no, da alcune componenti. Quindi insomma stiamo parlando di un campo di battaglia, ecco, tutt'altro che di un mondo pacifico da occupare, ecco. Allora, siamo arrivati alle 21, andiamo a chiudere perché sono già due ore che stavo a chiacchierare, stavo a attaccare Pippone come si direbbe a Roma, e nonostante qui ci sono diversi fuorisede, no, quindi noi usiamo questo gergo romano e stavo a attaccare Pippone, quindi andiamo a chiudere, andiamo a ringraziare prima di tutto Francesco Piccolo, perché attraverso il suo libro uscito per Einaudi, La bella confusione, che al di là dello spunto che ci ha dato per alzare questa discussione, ci è piaciuto molto e che consigliamo, perché va a raccontare una storia di questo paese molto interessante, degli spaccati veri, oltre a due giganti del cinema italiano che sono Visconti e Fellini. Io non ho mai capito Fellini, però forse un giorno ci arriverò a capirlo, mentre invece Francesco è cresciuto con Fellini. Io un po' lo invidio, non ci ho mai capito niente, quando ho visto anni fa ho detto ma che è. Comunque ringraziamo Monica Pietrangeli, perché è stata non soltanto la vita di Radio Onda Rossa, che c'è anche un trascorso con la radio e ha anche molte amicizie con la radio, quindi la ringraziamo tantissimo. Michele non lo ringraziamo perché è di casa e quindi battere a fanculo, sta qua, abita allo Schiocco, che riposa in un bien, no, sta qua a 200 metri. E poi ringraziamo di nuovo Giorgia Seruchetti. Andiamo a chiudere dicendo che faccio questa operazione che si chiama operazione accattonaggio e me la rivendico. Là ci sta il banchetto della radio. La radio è una radio indipendente, ci ha bisogno di vive delle sottoscrizioni di tutte e tutti noi, di radioabbonamenti, del piazza e ragazza là. Quindi passate da quel banchetto. Ci sta Valerio, che è bellissimo, così vi accoglierà con le sue sapienti braccia da lavoratore del mondo culturale, così che s'arrangia come tutti, perché poi il mondo culturale è tipo Farider, arriviamo a dunque, se lavora la merda, la maggior parte della gente che lavora nell'editoria, per esempio, sa tipo i Rider, anche, a volte pure peggio di Rider, perché più o meno, almeno quelli stanno senza colli, va a farne i consigli, non c'hanno, no, il capo sopra che dice ma questo altro, ma questo ancora. E quindi viva i Rider, abbasso quelli che lavorano nel mondo culturale. Così. Chiudiamo così, la roba molto working class. Grazie a tutti e tutti.